Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, sono tornata a Milano, sono le 11.07, tutto bene, Roma magnifica. Comunque, abbiamo Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e come sempre Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i temi di oggi. Psoriasi, disagio a fior di pelle. Rimpianto, uno stato d'animo che si vive anche in terza persona. Ictus, un test, predice la possibilità di recupero motorio. E sì, la puntata di oggi vuole fare un po' il quadro, il punto della situazione sulla psoriasi, questa malattia cronica invalidante di cui abbiamo parlato tante volte, che colpisce nel mondo occidentale circa il 3-4% della popolazione. In Italia a soffrirne sono 2 milioni e mezzo, 3, ma le stime sono così un po' azzardate, forse sono in difetto. E dato che spesso i numeri ci dicono poco, immaginate più o meno gli abitanti di una città grande come Milano, per visualizzare questo numero. Dai numeri passiamo agli ospiti, di numeri parleremo ancora nel corso della nostra trasmissione. In studio con me ho l'onore di avere il professor Altomare, che è direttore del servizio di dermatologia dell'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico del Galeazzi di Milano e ordinario di dermatologia all'Università di Milano. Grazie. Professore, grazie per essere con noi. Abbiamo in linea da Roma, immancabile, la dottoressa Mara Maccarone, presidente di Adipso. Ciao Mara. Buongiorno, ciao, ciao Mara, anche da parte mia. Ciao Gianfranco, prof, buongiorno. E il dottor Sabatino Pallotta. Buongiorno dottor Pallotta. Buongiorno a tutti. Il dottor Pallotta è dirigente medico specialista in dermatologia e reumatologia all'IDI di Roma. Allora, ciascuno dei nostri esperti oggi aggiungerà, stimolato immagino anche dalle vostre domande, un tassello al grande puzzle dell'informazione sulla psoriasi. Io credo che per questa malattia, su cui pesano ancora molti pregiudizi e che a livello individuale incide in modo significativo, direi, sulla qualità di vita del paziente, Mara poi ce lo racconterà in diretta, e lasciatemelo dire anche delle persone che vogliono bene a questo paziente, che gli vivono intorno, l'informazione sia cura. E da anni la Adipso sta lavorando proprio in questa direzione. Il suo motto potrebbe essere: conoscere per non avere paura, sapere di più per viverla meglio. Tante le iniziative, a cominciare dai gazebo che ci saranno nelle piazze italiane il 24 e il 25. Mara, vuoi raccontarci? Sì, la giornata mondiale della psoriasi si festeggia, per dire una parola carina, insomma. Comunque cerchiamo di dare informazione più spinta, più profonda, più approfondita il 24 e il 25 su circa 40 piazze in Italia, e si possono trovare in tutte nel nostro sito, e in tutte le città si può vedere dov'è la città di ognuno che ha bisogno di andare a parlare. Ci saranno degli specialisti, dermatologi specialisti, a parlare con noi per darci più informazioni dal vivo e con un po' più di tempo, perché quando si è in visita in un ospedale, in una clinica, il tempo è sempre limitato, no? Perché ecco, loro non vogliono. Questo è il primo punto che Mara Maccarone è sempre molto pungente. 824 0024, noi abbiamo tempo di parlare di questa malattia insieme ai nostri esperti, ai nostri ospiti, sino a mezzogiorno. E intanto io inizierei a chiedere al professor Altomare di parlarci di questi centri pubblici che sono proprio dedicati alle persone che soffrono di psoriasi. Ne abbiamo parlato tante volte. Il programma PsoCare è un programma di ricerca sulla psoriasi, è promosso dall'Agenzia Italiana del Farmaco, anche supportato naturalmente dalla Adipso, dalle società scientifiche di dermatologia, e quindi vorrei che lei ci aiutasse a capire come funzionano questi centri che, voglio dirlo subito, vengono invidiati e presi a modello dai paesi europei e anche dagli americani, vero professore? Sicuramente, questo è proprio vero. Allora, il centro PsoCare prima di tutto non deve essere individuato come un centro dove si curano soltanto le malattie gravi, non deve essere considerato un centro dove lo psoriasico grave deve recarsi, ma deve essere considerato un centro dove il malato di psoriasi viene e si può essere curato anche per forme particolarmente lievi, può essere indirizzato, può essere indirizzato verso la fototerapia, verso la terapia topica o verso medicine ben più potenti, ben più attive come sono i nuovi farmaci biologici. Tengo a precisare che questi farmaci biologici possono essere somministrati solo ed esclusivamente nei centri PsoCare, cioè in quei centri che vengono individuati dall'Agenzia Italiana del Farmaco come centri adatti a poter somministrare dei farmaci che sono dei farmaci di una certa potenza. Sono farmaci che riescono a rimettere a posto dei pazienti che hanno una qualità di vita brutta, che hanno dei problemi non soltanto estetici. Ricordiamoci che la psoriasi non è una malattia solo della pelle. Adesso si tende a individuare questa forma come la malattia psoriasica, perché i psoriasici possono avere delle comorbidità, cioè possono avere delle alterazioni del metabolismo dei lipidi, possono avere una incidenza del diabete intorno al 12-15% di più della popolazione normale e addirittura nel 30% possono avere dei problemi articolari. Problemi articolari che, se individuati precocemente, vengono bloccati appunto da questi farmaci o da altri farmaci tradizionali, e quindi il paziente può non andare incontro a dei problemi della vita che possono ulteriormente complicare la qualità. Tra l'altro, l'indizio è sull'unghia, e allora io vorrei, professor Altomare, prima di coinvolgere il professor Pallotta, il dottor Pallotta, diamo già subito un indizio ai nostri ascoltatori, così guardatevi le unghie e chiamateci all'824 0024. Qual è un segnale che non va trascurato? Allora, prima di tutto bisogna dire, piccola premessa, che la psoriasi spessissima si accompagna a un'onicopatia. Onicopatia vuol dire alterazione delle unghie, e ci sono delle alterazioni particolari che vanno dalla punteggiatura dell'unghia, non so se ha presente il ditale da cucito delle nostre nonne, certo, ecco, bene. Questa è un'alterazione classica dell'unghia, sì. Psoriasi. Oppure ci possono essere delle striature, ci possono essere dei cambiamenti di colore, le cosiddette macchie d'olio che possono colpire. E questi possono essere delle indagini molto importanti da fare in psoriasi, perché pare, e questo ce l'ha insegnato questo collega che lavora a Leeds, il McDonald, che dice che chi più ha... Un po' come quelli delle hamburger. Esatto. Si chiamano uguale. Si chiamano uguale. Che più uno ha alterazioni ungueali, più facilmente ha un interessamento dell'interfalangea distale, cioè delle articolazioni piccole delle mani, quelle distali, cioè quelle verso le unghie. Professore, anche se la psoriasi ha una forma molto lieve? Anche se la psoriasi è una forma molto lieve. Ecco, quindi mi raccomando, occhio alle unghie, noi ne parleremo, ma vorrei coinvolgere il dottor Pallotta, perché il professor Altomare, dottor Pallotta, ha anticipato anche i dati che sono anche emersi da un'indagine promossa dalla DIPSO, anche pubblicata recentemente sull'European Journal of Dermatology, che ha sottolineato la tematica della comorbidità. Il professor Altomare ci ha detto che il paziente che soffre di psoriasi non ha solo una malattia della pelle, è un paziente complesso. Si associano altre malattie, diabete, ipertensione, obesità, colesterolo alto, a volte anche depressione. Artrite mi sta suggerendo. Io ho un professore in studio che mi suggerisce, io mi sento così coccolata. Grazie. Artrite, giusto. Artrite. Dottor Pallotta, perché tutti questi guai tutti insieme? Allora, questo, diciamo, il nuovo aspetto della malattia, l'ha detto già il professor Altomonte, prima si pensava... Altomare. Facciamo le vacanze al mare, non in montagna. Altomare, prima si pensava solamente a una malattia cutanea con un target esclusivo sulla cute. In realtà vediamo che oggi c'è un coinvolgimento maggiore, quindi è importante un approccio anche multidisciplinare, come quello che si sta delineando, in modo particolare per il discorso di queste alterazioni del metabolismo. Quindi spesso abbiamo pazienti che hanno associato, come ha detto lei, una alterazione dei valori pressori, e ci riporta un po' a quello che dicono anche i nostri vecchi maestri, che differenziano due tipi di pazienti psoriasici: pazienti tendenzialmente obesi che spesso associano alterazioni, ecco, della glicemia. Quindi vediamo come adesso si stanno rivalutando le osservazioni essenzialmente cliniche del passato, ed è molto importante per fare questa valutazione globale, come è stato detto e come ricorda sempre la dottoressa Maccarone, in quanto il paziente deve essere visto nella sua globalità. Dobbiamo ritornare a mettere il paziente al centro, non solamente, esatto, naturalmente, esatto, per i malati di psoriasi. Certo, io che sono più vecchio indubbiamente del dottor Pallotta che sta parlando, mi ricordo bene che invece i nostri maestri tanti anni fa, io le parlo di 35-36 anni fa, individuavano invece il paziente psoriasico come il malato, non dico immaginario, ma comunque il paziente che stava bene. Questo è stato completamente sovvertito negli ultimi anni. Si è visto, studiando bene e curando bene

scelta aveva dato un esito diverso da quello che avrebbe potuto fare. E in sostanza noi abbiamo potuto confrontare la sua attività cerebrale con quella descritta in soggetti che sperimentavano loro stessi il rimpianto. E il risultato interessante è che le aree cerebrali, i sistemi cerebrali che si risvegliano nel cervello dell'osservatore sono praticamente sovrapponibili a quelle che si osservano quando si sperimenta un rimpianto in prima persona. Professore, dove porterà questa ricerca? Perché si fa sempre più luce sui meccanismi che regolano un po' le attività dell'uomo e i suoi comportamenti. Io penso che alla lunga, magari non adesso, ma nel corso dei prossimi anni, capire di più come funziona il cervello normale in situazioni così, diciamo, centrali dell'esperienza umana potrà avere delle implicazioni per comprendere tante malattie, tante patologie, penso soprattutto a patologie psichiatriche e neurologiche che sono caratterizzate proprio da un'alterazione di questi meccanismi di base. Se posso fare un esempio, noi abbiamo imparato molto sull'organizzazione per esempio del sistema motorio, no? E le conoscenze che noi abbiamo su come organizziamo i movimenti sono alla base di quello che possiamo fare per i pazienti che hanno dei disturbi del movimento. La speranza è che capire di più di questi meccanismi complessi possa essere di aiuto per trattare delle situazioni in cui sono questi meccanismi che funzionano in modo normale. Professore, io l'aspetto qui a Radio 24 in studio per una puntata proprio tutta dedicata a questo tema. Intanto le auguro buon lavoro, buona ricerca e anche soprattutto buona giornata. Molte grazie anche a lei. Arrivederci. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci di psoriasi. Allora, ascoltiamo la nostra scheda che ci permette di raccogliere le informazioni necessarie e poi continuiamo a parlarne con voi, 824 0024, con i nostri esperti. La psoriasi si manifesta con la comparsa di chiazze rossastre rotondeggianti, delimitate ai bordi e ricoperte di squame sovrapposte dal colore biancastro, che sfuma nell'argento. In alcuni casi, le zone in cui compaiono le chiazze diventano sede di prurito più o meno intenso, a seconda della reazione individuale all'infiammazione. La malattia si sviluppa quando, a causa di una disfunzione del sistema immunitario, le cellule dell'epidermide crescono con una rapidità fino a 7 volte superiore alla norma e si accumulano in superficie, provocando la desquamazione della pelle. Normalmente le cellule della pelle impiegano 28-30 giorni per maturare e il loro ricambio è invisibile, mentre nella pelle affetta da psoriasi le cellule cutanee maturano in 2-6 giorni, dopodiché si muovono verso la superficie dell'epidermide, accumulandosi e formando spesso lesioni. Alla base della malattia vi è un'alterazione genetica che si trasmette per via ereditaria, ma che non può in alcun modo costituire elemento di contagio. L'intervento di fattori ambientali e psicoemotivi scatenanti determinano poi l'insorgenza della malattia. Allora, professor Altomare, possiamo dire che la pelle, le cellule dell'epidermide e degli psoriasici hanno più fretta di cambiarsi, no? Sicuramente sì. Ecco, la cosa molto importante è dire che è una malattia con una costituzione genetica. Cioè, il paziente nasce con una predisposizione ad avere la psoriasi. Poi è possibilissimo che non ce l'abbia durante la vita. Questo può spiegare il fatto che alcune generazioni vengono saltate, che magari il nonno sia psoriasico, il figlio no, e il nipote poi abbia delle alterazioni psoriasi. Questo è spiegato dal fatto che la predisposizione genetica deve essere validata da alterazioni dell'ambiente. Cioè, questa malattia può essere scatenata da infezioni, può essere scatenata da somministrazione di farmaci non adeguati, può essere scatenata anche da fattori emotivi. Tendo a sottolineare che la psoriasi non è una malattia psicosomatica. La psoriasi può essere scatenata in pazienti predisposti geneticamente da fattori emozionali, che è ben diverso. Mara, volevo, come paziente, tante volte ritorna anche nei nostri sms l'idea che la psoriasi sia una malattia psicosomatica. La Dipso come si pone, come fa informazioni in questo campo? Ci poniamo bene, cerchiamo di ascoltare il professor Altomare, che condivido pienamente. Cioè, tutti prima pensavano che fosse una malattia psicosomatica perché non sapevano dove mettere le mani tutti quanti. Sì. Però adesso la psiche ha un grande fa un grande lavoro su di noi purtroppo, però non è una malattia psicosomatica, cioè è una malattia vera e propria. È chiaro, io dico che è il cane che si morde la coda. Certo. Io sono nervosa, ho problemi psicologici e mi peggiora la psoriasi. La psoriasi peggiora e io divento nervosa. Quindi noi facciamo molta informazione, abbiamo degli psicologi e speriamo di averne sempre di più in quasi tutte le cliniche dei centri PsoCare per aiutare i pazienti che hanno la psoriasi, e quindi io spero che presto questo possa essere un dono che la società ci possa fare, perché aiutare psicologicamente il paziente è importantissimo. Metà della cura è terapia. Ma io vorrei dare subito il benvenuto al professor Giuseppe Novelli, che è preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e direttore del Dipartimento di Genetica Medica dell'Università di Roma, Tor Vergata. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Genetica medica, abbiamo per i nostri ascoltatori una bella notizia da dare, una ricerca che è nata proprio dalla collaborazione italiana con altri centri un po' sparsi per il mondo, l'Unione fa la forza, ha scoperto qualcosa di interessante, dei geni scudo. Sì, sono molto interessanti, fanno parte di quella categoria che il professor Altomare ha definito geni di predisposizione alla malattia, ma che io definirei geni di suscettibilità, perché predisposizione è un termine negativo, ormai in genetica non viene più usato, perché tutti noi hanno suscettibilità alle malattie, di tutte le malattie dell'uomo hanno una suscettibilità genetica. Ciò non significa che la psoriasi sia una malattia genetica, né dovuta ad un'alterazione genetica, perché queste persone hanno, né più né meno, gli stessi geni che condividono con il 30-40% della popolazione normale, sono semplicemente delle varianti che sono presenti in tutti noi, ed è meno male che ci sono, perché altrimenti saremmo già estinti, che in alcuni soggetti li rendono in qualche modo più suscettibili con l'azione dell'ambiente a sviluppare alcune caratteristiche rispetto ad altro. Questa è la situazione. I geni scudo sono questi geni nuovi che abbiamo scoperto sul cromosoma 1, fanno parte di questa categoria e che consentono ad alcuni soggetti di rispondere meno efficientemente a stimoli ambientali, e tra questi ci sono i psoriasici, ma non sono appunto per questo geneticamente alterati. Professore, la vostra scoperta che dove porterà? Non certamente, perché la genetica non può individuare le persone che svilupperanno la malattia, ma sottolineare il ruolo di alcuni meccanismi e quindi trovare dei farmaci più adeguati? È questa? Questo è un obiettivo, perché prima conoscere i geni significa prima arrivare ai farmaci, però l'obiettivo nostro è certamente quello non di individuare le persone che svilupperanno la malattia, ma quelle persone che potremmo considerare più a rischio di poterla sviluppare. Certo. Quindi guardare all'interno delle famiglie dove ci sono le forme particolarmente gravi di psoriasi, ed intendo dire quella con l'artrite praticamente, che è quella che a noi ci preoccupa di più. E noi ne parleremo. A breve avremo anche delle buone notizie su questo, perché siamo sulla buona strada di individuare uno dei fattori genetici responsabili anche di questo. Magnifico, professore. Allora noi l'aspettiamo, Quando è che ci dà questi dati di questa nuova ricerca? Stiamo per inviare la pubblicazione alla rivista importante. Noi siamo qui, li aspettiamo. Professore, aspettiamo anche a lei. Buona giornata. Grazie. Grazie a lei. Eccoci tornati insieme oggi, trasmissione dedicata alla psoriasi anche in occasione della giornata mondiale che cade proprio questo weekend. E a questo proposito rispondo agli ascoltatori che mi hanno scritto del modo per conoscere le piazze di andare sul sito della Dipso, ma naturalmente trovate anche il link su Essere Benessere. E intanto andiamo subito a Monza, ci aspetta Gabriella. Buongiorno Gabriella. Buongiorno. Si è guardata le unghie Gabriella? Sì, no, io sono a postissimo. Brava. Okay. Sono perfetta, anche perché lavorando in cucina non posso permettermi di avere le mani rovinate. Mm. Io telefonavo perché volevo sapere se la psoriasi può insorgere anche in bambini piccoli. Piccoli, sì. Diciamo 4-5 anni. 4-5 anni, dottor Pallotta? Sì, la psoriasi, come si è detto in precedenza, può interessare i pazienti in tutte le fasce d'età, quindi abbiamo delle forme anche in bambini molto piccoli, 3-4 anni, così come in pazienti di 65-70 anni. Però abbiamo dei picchi, professor Altomare, in cui la psoriasi più frequentemente si manifesta, delle fasce d'età, è vero? Sì, sicuramente. Questa era però un'idea un po' di anni fa. Adesso questa faccenda che il primo picco è intorno ai 20 anni, e l'altro intorno ai 40-45 è stata un po' perduta. Direi che, come avevo già accennato prima, la cosa importante per il paziente psoriasico è quella di non incontrare quei fattori scatenanti che possono fargli venire la malattia. Ricordo alla signora che ci ha telefonato che si può nascere con la psoriasi, quindi ci sono degli infanti che hanno delle dermatiti scambiate a volte con dermatiti da pannolino, che sono delle franche psoriasi, quindi la valutazione della malattia deve essere fatta dal primo giorno di vita fino all'ultimo. Mara, tu quando hai conosciuto la psoriasi? Sì, fra un po' non me lo ricordo più, avevo 19 anni. E è cominciata proprio nelle mani, e nel palmo delle mani. Ho vissuto a Londra per 2 anni, ne studiavo, proprio ai tempi che nessuno ci andava, insomma sono stata una pioniera, e una ragazza di 19 anni che è stata lì 2 anni a studiare, tornata mi sono trovata queste lesioni alle mani, ma piccole, cioè come se fossero delle irritazioni, insomma. Sì. Prima di avere una diagnosi, oggi fortunatamente abbiamo dermatologi esperti come quelli che abbiamo al telefono, il professor Altomare, insomma la diagnosi adesso la fa in un secondo, almeno da quello che conosco io, e il professor Pallotta spero pure, perché non lo conosco bene come il professor Altomare, però lo so che è bravo. Ma io ci ho messo 3 anni per avere una diagnosi. Era praticamente, pensavano che fosse un'allergia da contatto, pensavano che fosse una cosa che passa, una cosa psicologica, una cosa nervosa, ecco lì abbiamo cominciato subito. E proprio per questo, con tutte queste disinformazioni che c'erano, 20 anni fa ho deciso, insieme ad altre 4 persone, di fondare la Dipso. Perché infatti festeggiamo i nostri 20 anni. Sì. Auguri alla Dipso. È stato un gran lavoro, e per raggiungere questi risultati, sia tra rapporto medico e paziente, rapporto con le istituzioni, abbiamo lavorato tantissimo. E devo dire che adesso, insomma, anche con voi della comunicazione abbiamo veramente un ottimo rapporto, perché mentre prima non se ne parlava affatto, sì, oggi se ne parla, c'è bisogno di fare almeno credo che sia passata l'idea che la psoriasi non è contagiosa. Assolutamente. È brutta da vedere, magari, ma non è contagiosa. Intanto andiamo ad Augusto, che ci chiama da Modena. Buongiorno Augusto, benvenuto. Buongiorno. Il mio problema è mia figlia di 12 anni. E su cui io ho fatto un'autodiagnosi guardando su internet, vale a dire, partita alcuni giorni fa con una sola chiazza circolare sulla schiena, ed è in corso, dopo alcuni giorni sono iniziate altre chiazze, sempre circolari e più piccole, sempre solo sul busto o sul davanti. Io l'ho diagnosticata psoriasi rosea di Gibert. Senta Augusto, volevo dirle, lei è medico? Come? Lei è medico o è solo un papà? Cioè, no, che è già un, papà. È già un tanto papà, Noi siamo, Augusto, aiutati molto da internet e molto dai mezzi di informazione, anche da queste trasmissioni, no? Dove giustamente noi raccogliamo le informazioni. Ma, professor Altomare, Augusto, noi diagnosi telefoniche non possiamo farle, anche perché i dermatologi hanno questo brutto vizio che vogliono vedere. Non è un brutto vizio. Le diagnosi telefoniche sono sempre drammatiche per i dermatologi. Ecco, quando è che una chiazza, Augusto, diventa sospetta? Nella scheda iniziale si è detto chiaramente che la chiazza psoriasica è una chiazza eritematosa, quindi rossa, a margini molto netti, e se non mi ricordo male è stato detto che le squame hanno un colorito biancastro che vanno verso l'argento. Sì. È così la chiazza? Augusto? È caduto. È caduta la linea. Vabbè, comunque è così. Sta a dire inoltre che insomma è difficile una chiazza unica, tutto è possibile in dermatologia, in medicina, una chiazza unica sul tronco. In genere la psoriasi esordisce in maniera simmetrica nelle zone estensorie, quindi possono essere i gomiti, possono essere le ginocchia, può essere il cuoio capelluto, che è una zona estensoria, ecco, anche quella. Però è possibile anche una chiazza unica, però bisognerebbe vedere la disquamazione. Ecco, dopo, se la chiazza è italiana, diamo un messaggio, perché tutti noi magari abbiamo delle piccole lesioni nella pelle che poi vanno via. Dopo, se io ho delle, mi guardo i gomiti, anzi lo faccio con il professor Altomano, non c'è niente. Vabbè. Però se avessi delle lesioncine ai gomiti, entrambe, aspetto 3 o 4 giorni, 10, 15, quando vado a parlarne col mio medico di base, che spero poi nel caso mi manderà ai centri PsoCare. Ho dato un pugno al microfono, scusa Carmelo. Allora, beh, qualche giorno bisogna anche aspettare, però perché uno deve avere delle lesioni simmetriche ai gomiti? Un po' difficile. Se uno ha una lesione traumatica, ce l'avrà su un gomito solo. Se uno ha una lesione irritativa, sarà molto laterale. Quindi è la simmetria che può farci pensare alla psoriasi, oltre alle squamette. Andiamo, è d'accordo, dottor Pallotta, lei? Assolutamente. Assolutamente. Vuole aggiungere qualcosa per i nostri ascoltatori? Perché io vorrei che gli ascoltatori di Essere Benessere si prendessero molto cura di sé, senza naturalmente preoccuparsi, ma ecco, però conoscessero le cose, perché tutti noi possiamo diventare promotori di prevenzione, non diventare dei balanzoni o dei medici. E farsi venire in mente che si va dal medico anche a farsi dire che non ha niente, non deve essere per forza malato, la prevenzione è anche questa. Dottor Pallotta, vuole aggiungere un consiglio? No, perché a volte passa il messaggio e qui i pazienti si allarmano molto e vengono spesso con la paura di aver la psoriasi e abbiamo difficoltà a convincerli che non hanno la psoriasi. Quindi è il contrario. A volte sì, perché c'è proprio un po' di paura nei confronti di questa malattia, per quello che si diceva prima, cioè una malattia di corso cronico, legata ad aspetti anche un po' sconosciuti nel passato. Oggi in realtà abbiamo la possibilità di invece tranquillizzare molti pazienti, anche perché, come si diceva prima, in fase iniziale si possono ovviamente curare e trattare la malattia e stabilizzarla poi nel tempo. Io posso aggiungere qualcosa, non sono tanto d'accordo sulla faccenda di internet, perché secondo me una cosa è il nozionismo e una cosa è la cultura. E l'individuare una chiazza attraverso internet mi sembra veramente difficile, probabilmente deve essere difficile anche per una persona esperta. Allora, professor Altomare, Augusto, come molti genitori come me, magari non aveva il medico vicino e ha detto: cosa sarà questa chiazzetta? Allora internet dà una aspetta mano. Aspetta qualche giorno, aspetta il medico e fa visitare il medico. Ecco, però intanto per rassicurarsi noi sbirciamo un po'. Ma poi secondo lei si riassicura o diventa ancora più ansioso? Il rischio è che più leggi e più l'ansia aumenta. Mara, cosa dici tu? Pronto? Mara, cosa dici tu? Le informazioni? Io sono pienamente d'accordo, professor Altomare, perché da internet sono nati dei mostri. Per me l'informazione, soprattutto noi ci battiamo tanto per avere la possibilità di parlare con il medico, conoscersi, cioè far capire che la psoriasi sì è una malattia cronica invalidante molto grave, però conoscendola, come hai detto tu, si può non avere paura e si può vivere meglio, soprattutto per noi genitori, cioè quando i nostri figli, come hai detto tu, hanno un problema, noi siamo malati noi. Sì. Infatti penso, mi diceva un nostro amico medico pediatra, diceva che i peggiori pazienti sono i genitori dei bambini, perché effettivamente è questo è sempre così, perché siamo preoccupatissimi, certo. Questo, e internet, io non lo so, io farei una predica tutti i giorni su internet, perché succedono delle cose gravissime, fanno credere alla gente che si curano con l'acqua Paola, come si dice a Roma, e invece non è vero. Quindi la comunicazione con il medico è importantissima. Cioè però noi abbiamo bisogno di medici che ci ascoltino. Assolutamente. Come dice Luciano al 349-238-6666. Ho tanti ascoltatori a cui chiedo di essere sintetici per trovare una risposta. Andiamo a Mara, che ci chiama dalla provincia di Pavia. Buongiorno Mara. Buongiorno e grazie mille. Sono una mamma malata per il figlio che ha 27 anni e da 15 anni, esclusi tutti i test di allergie e quant'altro, ha chiazze sulle braccia, sui polsi, sugli angoli delle bocche, vengono diagnosticate per dermatite topica. Ultimamente ha una chiazza anche all'interno coscia. Non è che queste, è stata definita fungo. Non è che queste dermatite topiche o funghi possono essere psoriasi? Chiede una mamma preoccupata. Allora no, qui bisogna far chiarezza subito. Una cosa è la psoriasi, una cosa è la dermatite atopica e una cosa sono i funghi. Allora, se sono funghi o micosi come vuole, si guariscono subito, perché ci sono delle terapie adesso che nell'ambito di un 20-30 giorni massimo riusciamo a sistemare. Se è una dermatite atopica e anche questa una malattia costituzionale, nel senso che il paziente nasce con delle alterazioni immunologiche e non, perché il paziente atopico non è detto che abbia per forza solo delle alterazioni immunologiche o allergologiche, e se invece è la psoriasi è un'altra cosa, ne abbiamo parlato fino adesso. Ma voi dermatologi non potete sbagliare. E magari potessimo sbagliamo come tutti, però insomma direi che la diagnostica differenziale la diagnostica differenziale non è poi così difficile, quindi direi che si sta tirando avanti una diagnosi che poteva essere fatta molto prima. Andiamo a Cinzia che ci chiama da Roma. Buongiorno Cinzia. Buongiorno, chiamo da Roma, appunto sono Cinzia, anch'io sono affetta da psoriasi, che in questo periodo mi si è molto riacutizzata, tant'è vero che ho sia le gambe che insomma sopra delle gambe tutti i puntini. Tini. E io volevo sapere, ho guardato appunto il sito della Dipso e parla delle diverse tipi di terapie, quindi la terapia topica, fototerapia, sistemiche, biologiche, naturali, ma qual è? Io finora ho fatto solo quelle topiche, ossia creme, unguenti, eccetera, eccetera, e come risultati, insomma, ben pochi. Cinzia, ma lei è andata in un centro PsoCare? Sì, pubblici, andata. L'hanno accolta bene? Sì, no, per quello benissimo, e mi hanno dato delle pasticche che purtroppo ho dovuto smettere perché mi davano problemi allo stomaco. Sì. E quindi adesso dovrò sentire se ci sono dei dosaggi più bassi. Sì. Ma volevo chiedere al professore, tra questi tipi di terapie, secondo lui qual è la più diciamo efficace? Forse quella biologica, che ultimamente se ne sente parlare parecchio. La più efficace è quella più adatta al paziente, quindi bisogna conoscere il paziente, parlare col paziente. Ed è, signora, lei dice le capsule mi fanno male allo stomaco, lei non deve sospendere, deve andare dal medico che gliela data, spiegare qual è il suo problema e il medico saprà risolvere. Se lei sospende così non potrà mai stare bene. E poi la terapia locale si fa se uno ha poco o niente. Le terapie sistemiche sono tali e si chiamano sistemiche perché coinvolgono tutto l'organismo e vengono usate nei pazienti che hanno più problemi. E fra queste sistemiche possono essere individuate le cosiddette terapie tradizionali, che sono terapie ormai in atto da tanti tanti anni, oppure le terapie biologiche, che sono però delle terapie solo e esclusivamente adatte per pazienti che non rispondono alle terapie sistemiche tradizionali e che abbiano dei problemi seri. Quindi non si può scegliere una terapia, bisogna vedere il paziente, parlare col paziente, però il paziente deve dare retta al medico, non deve sospendere la terapia senza interpellare il medico. Cinzia, ci faccia sapere, si affidi. Andiamo a Gennaro che ci chiama da Milano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Gennaro, veloce però, venga la domanda. Ecco, niente, io volevo dire questo. Un anno e mezzo fa circa, nel dito indice, mi è uscita la psoriasi, cioè in poche parole avevo dei puntini. Sì. L'unghia tendeva a cadere più o meno. Sì. Dopo sei mesi da questo si è spostato al mignolo, però solo in un lato del dito. Andando avanti così, il dito, il indice è andato a guarire da solo, lasciando i puntini sono andati via e lasciandomi sotto solamente questa patina, come si vede, psoriasi. Io sentivo prima che questo passiamo alla sue unghie al dottor Pallotta. Dottor Pallotta, questo cambiamento di unghie è sospetto? Sicuramente sì, perché come ha detto prima il professor Altomare, oggi vediamo come addirittura questo può essere un segno che predittivo, cioè che ci può far ipotizzare anche un coinvolgimento articolare. Quindi va sempre fatta una valutazione sul paziente dal punto di vista generale, valutare il tipo di situazione clinica che presenta e valutare lo specifico se questo può essere un segnale di interessamento precoce di un danno articolare, che è molto importante, perché se interveniamo presto riusciamo a bloccare poi la progressione del danno sull'articolazione, quindi un danno poi tipo anche funzionale. Debora da Milano, buongiorno. Io non ce la faccio a metterla in onda, Debora. Sì, sono buongiorno qua. Perché buongiorno. Devo chiudere, però se lei mi scrive a esserebenessere@radio24.it le prometto che il professor Altomare le risponde, vero professore? Allora salutiamo Debora, ringraziamo Mara Maccarone per essere stata con noi. Mara, E ringraziamo soprattutto la Dipso per l'impegno costante. Assolutamente sì, devo dire, come medico che fa parte degli amici della Dipso da tanti anni, tanti ringraziamenti a Mara, che si dà da fare in tutte le maniere. E devo dire noi, che insegna anche ai medici a fare i medici, no? Sicuramente sì. Vabbè, questo è un po' esagerato. No, non è vero, non è vero, Mara. Dottor Pallotta, grazie. Ci richiama spesso. Arrivederci a tutti. Dottor Pallotta, a grazie, buona giornata. Buona giornata. E vi ricordo i gazebo il 24 e il 25. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Sono stata perfetta oggi. Ho chiuso in tempo. Buona giornata.